È venerdì 2 novembre, intanto uno sguardo ai titoli dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre su Rating 24. Sapete che l'iniziativa lanciata qualche tempo fa per dare uno sguardo e monitorare a che punto sono le riforme del governo. Riforme, l'attuazione sale al 17,4%, questo è l'ultimo dato elaborato dal Sole 24 Ore. La vicenda Fiat, il Corriere della Sera: Fiat interviene il governo, Repubblica: la Fiat fermi i licenziamenti, il Messaggero: Fiat alto là del governo, il Secolo XIX licenziati Fornero, ferma la Fiat, mentre Pubblico accusa Monti, che mette in prima pagina con il titolo sulla Fiat il silenzio sugli innocenti, Monti tace, Pomigliano rischia la guerra tra poveri. La Stampa ancora sulle province, il piano di Monti per tagliare le prefetture. Libero: centinaia di posti per chi cerca lavoro, continua l'iniziativa di Libero a segnalare il lavoro che c'è. Il Fatto Quotidiano: di Pietro Grillo è un terremoto, e come il Fatto altri giornali, il Giornale apre sulla vicenda politica, Grillo sta con i comunisti. L'Unità invece intervista il segretario del PD Bersani, così cambieremo l'Italia, intervista a Bersani, mentre il Manifesto mette testa di ponte, la vicenda del ponte sullo Stretto, testa di ponte, c'è la foto di Mario Monti, il governo non decide sul ponte sullo Stretto di Messina. Avvenire invece: più sociale nella manovra, sulla legge di stabilità 1600 emendamenti, questo è il titolo di prima pagina. Oggi però Sergio Rizzo sul Corriere della Sera fa una pagina meritoria, perché mette in luce quelle che sono le riforme che la politica ha promesso negli ultimi mesi e delle quali o si è persa traccia o si fa fatica ad andare avanti. Seggi e privilegi, le riforme in panchina, pagina 7, da qui voglio partire. Per esempio la riduzione degli onorevoli, ma vi ricordate, erano solo qualche mese fa quando era stata approvata e si diceva verrà approvata in brevissimo tempo, con alcuni deputati, alcuni senatori che dicevano, leader politici, beh, se non tagliamo almeno questo 20% di senatori e di deputati entro questa legislatura, ma gli italiani non ci perdoneranno mai una cosa del genere. Che fine ha fatto quella riforma? Nulla. Carta straccia oppure a rilento. Sta di fatto che, racconta Sergio Rizzo, Francesco Pardi: abbiamo lavorato per anni a vuoto, allarga le braccia. Ricordate la riduzione del numero dei parlamentari? Sembrava non ci fosse missione più importante. Perfino i duellanti del Partito Democratico, Renzi e Bersani, divisi su tutto, erano concordi. In Senato era stata raggiunta anche addirittura un'intesa, non certo il dimezzamento dei seggi che praticamente chiunque aveva promesso, bensì una più potabile sforbiciata del 20%. Si sarebbe passati dagli attuali 945 a 762 parlamentari, 508 alla Camera, 254 al Senato. Non c'è alcun dubbio, giuravano ancora Giugno, Gasparri e Quagliariello dal quartier generale del PDL, la riduzione del numero dei parlamentari verrà approvata in tempi brevissimi e col voto convinto del PDL. Peccato che proprio la forzatura sulla proposta di riforma costituzionale semipresidenziale fortemente voluta da PDL insieme alla Lega abbia fatto saltare tutto. E allora adesso è tutto un che succederà, come si farà, ma poi anche racconta Sergio Rizzo che le elezioni in Sicilia anticipate hanno fermato quell'iter che prevedeva il taglio da 90 a 70 parlamentari, per cui non ci sarà questo taglio e infatti la nuova Assemblea regionale siciliana avrà sempre 90 parlamentari, deputati, si chiamano così nella regione Sicilia, deputati, anche se sono dei consiglieri regionali. Oppure il problema è risolto delle province, vabbè, questo è un iter che in realtà in qualche modo è iniziato, anche se tra tante difficoltà. Altro intoppo del decreto Salva Italia: stabiliva le modalità per sopprimere gli organi politici e di nomina delle future giunte comunali. Sarebbero state fissate dal governo con una legge da approvare entro il 2012. Il DDL c'è, è stato presentato qualche mese fa, ma è arenato e alla scadenza del 31 dicembre mancano solo 2 mesi. Oppure, scrive Sergio Rizzo, rischia di saltare anche la riforma costituzionale del titolo V della Carta, promossa dal governo dopo lo scandalo della Regione Lazio. È ferma, bocciata dalla bicamerale per gli affari regionali. Ora alcuni emendamenti nelle commissioni affari costituzionali e bilancio la svuotano, abolendo il controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti di spesa. Ecco qui dunque un'analisi che Sergio Rizzo sul Corriere della Sera affida sui provvedimenti che erano stati promessi da loro, non è che sono stati inventati o chiesti a gran voce dagli italiani, promessi dalla politica, ma per il momento tutti arenati. E certo, però, io, come abbiamo detto prima, bevendo il caffè dalle 6:30 con Paolo Del Debbio, con Antonio Taglia, non è che possiamo buttare sempre la croce addosso alla politica. Guardate anche noi italiani come siamo fatti. Castellammare di Stabia è una vicenda raccontata oggi dal Mattino in prima pagina e ripresa da Libero e dal Giornale, che hanno fatto una pagina sui dipendenti della multiservizi, azienda che gestisce il controllo, la raccolta dei rifiuti a Castellammare di Stabia. 83 dipendenti si fermavano al bar invece di raccattare la spazzatura. Così Libero. Assenteismo a gogo, 23.000 ore di pausa caffè, che sono risultate come 23.000 ore di straordinari pagati. 83 dipendenti, Peppe Rinaldi a pagina 18 di Libero. Certo, il caffè napoletano e in generale quello che si beve in campagna è il migliore al mondo. Nessuno riesce a capire perché la stessa miscela usata a Forlì, a Torino, Milano e Napoli non lascia alla fine lo stesso gusto sul palato. Un mistero che ammalia da secoli, incantando milioni di persone appassionati, al punto da spingere un netturbino di Castellammare di Stabia a impiegare 1 ora e 5 minuti per bere un caffè. Ecco, questo è uno dei risvolti che è emerso da questa inchiesta, che ha portato a un danno, una truffa quantificata di 1 milione di euro per i cittadini di Castellammare di Stabia, per questi dipendenti che scrive Libero, scrive Il Mattino, scrive Il Giornale, sotto il titolo Spazzini staccanovisti ma al bar, una pausa caffè da 23.000 ore. Così hanno calcolato, hanno quantificato la truffa, una presunta truffa dei netturbini assenteisti, che non sono stati licenziati, per carità. Poi prendiamocela con la politica, poi prendiamocela con i politici, ma è un po' la indole di noi italiani, di alcuni di noi italiani, forse troppi italiani, essere un po' dei malandrini, diciamo così. Comunque, 1 ora e 5 minuti per bere un caffè, caffè lungo, caffè intenso. Molti quotidiani, come abbiamo visto nei titoli, aprono sulla vicenda della Fiat, perché prima il ministro Passera allo sviluppo economico ha parlato della vicenda dei licenziamenti Fiat. Sapete, Fiat ha dovuto reintegrare, richiesto dal giudice, 19 appartenenti alla FIOM e a Pomigliano, e quindi Marchionne ha detto mettiamo in mobilità altri 19 dipendenti perché non c'è lavoro per uno di più. Questa vicenda appunto è stata giudicata negativamente dal ministro Passera, ma soprattutto dal ministro Elsa Fornero. Fornero: Fiat fermi i licenziamenti. Questo è il titolo che trovate sul Sole 24 Ore a pagina 35, nel dorso Imprese e Territori. Sui 19 licenziamenti, scrive Giorgio Pogliotti, annunciati dalla Fiat a Pomigliano, il governo rompe il silenzio. Prima appunto Corrado Passera, poi il ministro del lavoro Elsa Fornero, che si spinge più avanti invitando Lingotto a soprassedere all'avvio della procedura di messa in mobilità. Tra l'altro c'è un commento in prima pagina del Sole di Alberto Orioli. Il titolo è: chi paga il conto della doppia forzatura? Scrive Orioli: quando si arriva alla box giudiziaria, a perdere sono le relazioni industriali. La FIOM ha portato davanti al tribunale un accordo confermato da un referendum con voto segreto e votato dalla stragrande maggioranza dei lavoratori di Pomigliano, una forzatura. Il Tribunale ha sancito il principio delle assunzioni per appartenenza, una forzatura. La Fiat ha reagito con una contromossa che pone in capo alla FIOM la responsabilità del licenziamento dei 19 lavoratori che dovranno fare spazio ai reintegrati del giudice, un'altra forzatura. Insomma, in tutto questo si perde, dice Orioli, chi perde sono le relazioni industriali. La scelta del Far West non piace a nessuno, nemmeno ai tecnici, che pure hanno saputo far fare sacrifici agli italiani. Il paese ha bisogno di stabilità nelle relazioni industriali. C'è da dire che, tra l'altro, su Repubblica, come scrive Paolo Griseri a pagina 7, si sta profilando un'ipotesi di accordo. Niente tagli se aderite agli accordi, spunta l'ipotesi di un lodo Monti. Di cosa si tratta? Per la vicenda Fiat si tenta di fare intervenire il Premier mettendo fine allo scontro. Scrive Griseri su Repubblica: serve un lodo, un'autorità superiore che provi a mettere ordine nella guerra fuori controllo della Fiat, costringendo tutti gli attori in campo a fare un passo indietro. Ieri pomeriggio, mentre le dichiarazioni di ministri, sindacalisti chiedevano di mettere fine allo scontro di Pomigliano, nel retroscena si apriva appunto una discussione sul lodo. Qual è l'idea? L'idea è quella che sia il governo a convocare aziende e sindacati non per una trattativa, ma per un prendere o lasciare che provi a spegnere l'incendio. Una riunione ristretta, 6 o 7 persone al massimo. Una riunione preparata da contatti della vigilia in modo da evitare di mettere i convenuti di fronte a sorprese dell'ultima ora. E chi potrebbe presiedere questo incontro? L'unico esponente del governo sembra essere Mario Monti, l'uomo del quale Marchionne ha ripetuto anche ieri in un'intervista al Corriere della Sera di fidarsi. Quindi l'idea di convocare aziende e sindacati per un prendere o lasciare, una sorta di appunto lodo Monti, come viene definito da Repubblica, per mettere fine a questo scontro. Ovviamente Repubblica va anche a intervistare, così lo fa anche il Fatto Quotidiano, alcuni degli operai, cioè messi di fronte a questa scelta. Vengono reintegrati in 19? E allora la FIOM ci dica chi lascia mettere in mobilità al loro posto. Stella Cervasio va per esempio a Pomigliano d'Arco per Repubblica a intervistare chi? Ciro D'Alessio, iscritto FIOM, reintegrato, e Biagio Trapani, che potrebbe essere uno dei 19 che dovrebbe lasciargli il posto, tanto che quello reintegrato della FIOM dice: io sto male, mi fa rabbia vedere che ancora una volta i lavoratori di Pomigliano sono vittime di un vile ricatto e dell'atto di forza della Fiat, mentre Biagio Trapani, uno di quelli che potrebbe essere messo in mobilità per far posto al reintegrato, dice: è una roulette russa, ma non siamo uno contro l'altro, anzi c'è piena solidarietà tra colleghi. Insomma, questa vicenda della Fiat, certo, con il ministro Elsa Fornero che dice soprassedete, e poi l'ipotesi di un lodo Monti, chissà se nei giorni prossimi avrà degli sviluppi. Per quanto riguarda alcune delle novità previste di recente dal governo, è passata un po' sotto traccia, ma secondo me è una notizia molto importante, quella dei crediti delle imprese, perché dal 2013, dal gennaio 2013, il governo si è impegnato a far pagare i fornitori della pubblica amministrazione in 30 giorni. Su questo, per esempio, apre Italia Oggi: pagamenti a 30 giorni, è il titolo di prima pagina. I debiti delle imprese è un tema molto molto sentito, ovviamente molto importante. Anche il Fatto Quotidiano con Stefano Feltri oggi dedica una pagina a questo: debiti con le imprese, se lo Stato non paga ora rischia. Scrive Stefano Feltri: lo Stato non potrà più finanziarsi a spese delle imprese fornitrici da pubblica amministrazione, rimandando all'infinito i pagamenti dovuti, perché nella notte tra mercoledì e giovedì il governo ha approvato il decreto che recepisce la direttiva europea sui pagamenti, che dal 2013 dovrebbe cambiare tutto. Ma attenzione, solo per i nuovi contratti. Questo è il punto chiave, cioè tutti i debiti pregressi che i fornitori hanno accumulato in alcuni casi da anni per la pubblica amministrazione, per il momento quei pagamenti non rientrano in questa categoria che parte da gennaio 2013. Funziona così, spiega Feltri: il termine per saldare le fatture sarà di 30 giorni, o al massimo di 60 per casi eccezionali. Dal giorno dopo la scadenza scattano gli interessi di mora che sono stati alzati all'8%. Ma appunto questo avviene per i contratti nuovi e infatti Libero titola proprio così: lo Stato pagherà in 30 giorni ma non rimborsa i vecchi debiti. Dunque ossigeno alle aziende, ma per i nuovi contratti. Tra l'altro, a fianco a questa notizia sul giornale c'è anche una breve lettera del ministro del welfare e del lavoro, politiche sociali, Elsa Fornero, che è stata accusata di fare delle gaffe dal giornale. Elsa Fornero, un pochino piccata, prende carta e penna e scrive una lettera che viene pubblicata dal giornale a pagina 8, dicendo: le mie gaffe sì, perché dico sempre la verità. Mi sembra lecito sospettare che il cronista che ha scritto l'articolo alla Fornero piace fare gaffe si sia questa volta limitato nella foga di difendere una tesi a inanellare luoghi comuni. Mi conceda però, caro direttore, il piacere di augurare a lui, che come me non è un politico, di fare nella vita molte gaffe, se fare gaffe significa dire la verità. Forse la verità e l'indipendenza sono da bollare come tendenza a fare gaffe. E scrive Elsa Fornero: comunque le mie gaffe sono perché dico sempre quello che penso e dico la verità. Invece, cari ascoltatori, io non ho capito, ho anche un po' ironizzato su Twitter nel profilo Alino Milan, ho scritto: non ci ho dormito la notte. In realtà non è così, ma questa storia del ponte sullo stretto di Messina è un po' poco chiara. Allora, il governo ha deciso di non prendere una decisione per il momento, di mantenere ancora 2 anni per valutare meglio la fattibilità e la bancabilità del progetto del ponte sullo stretto, tanto che oggi molti quotidiani dedicano pagine a questo tema. Il Manifesto mette anche la notizia in prima pagina, con il titolo, poi l'articolo di Carlo Lania all'interno, Monti resuscita il ponte sullo stretto. Anche Raffaello Masci sulla Stampa dedica 2 pagine a questa vicenda, al ponte sullo stretto, rivolta ambientalista dopo l'ultima proroga. In pratica il governo, per non pagare la super penale, rinvia di 2 anni lo stop definitivo dell'opera. Quello che Raffaello Masci definisce una decisione pilatesca, degna di un governo della Prima Repubblica, ingiustificabile per un governo di tecnici. Questo è il parere che è dato dal WWF, con una severità estrema nei confronti del Consiglio dei Ministri, che ha preso una controversa decisione a proposito di un'opera ancora più controversa, quella del ponte sullo stretto. Tra l'altro la Stampa va anche con Fabio Albanese a Messina a raccontare la storia dei dipendenti della società, perché è una società che è presieduta dall'ex ministro Zamberletti e che è attiva, cioè ci sono lavoratori. A Roma 54 dipendenti fanno i conti con la pensione. Sono stati assunti nel 1981, tutta la carriera inseguendo un sogno impossibile. Assunti nel 1981 per la società che doveva realizzare il ponte sullo stretto, la società Stretto di Messina, il cui sito sul web si presenta così, scrive Fabio Albanese, in aggiornamento si presenta così, e dal 1981 la società funziona, fu istituita, dava lavoro a centinaia di persone, a Messina come a Roma, ora sono in 54, i primi assunti fanno i conti con la pensione per un progetto per il quale hanno lavorato. È un progetto che non si è mai fatto. A Messina è rimasto un ufficio meteo dentro l'università con 3 dipendenti, il resto del personale è trasferito ad altre amministrazioni dopo che nel 2006 il governo Prodi diede il primo stop sia al progetto sia alla stessa società. A Roma, in un intero piano del palazzo centrale della stazione Termini, lavorano in 50 ingegneri innanzitutto, ma anche una piccola pattuglia di avvocati amministrativi, e a quanto dicono le cose da fare non mancano. Anche perché già da un paio d'anni alcuni cantieri propedeutici sono stati aperti, soprattutto sulla costa calabra, mentre su quella siciliana gli abitanti delle zone nord di Messina per anni si sono mossi tra proteste in piazza e carta bollata. Dunque gran lavoro soprattutto anche per gli uffici amministrativi. Sta di fatto che ora fanno i conti con la pensione i primi che sono stati assunti dal 1981. A proposito di riforme, oggi c'è la pagella, il tagliando, diciamo così, del Sole 24 Ore, che dà questa 17,4%, vale a dire si è velocizzato il cammino delle riforme Monti. Secondo il monitoraggio del Sole 24 Ore, a fine ottobre il tasso di attuazione dei 7 provvedimenti più importanti è arrivato al 17,4% contro il 9,5% registrato a settembre. Resta ancora molto da fare. Ci sono 482 provvedimenti necessari per dare completa efficacia a tutto l'impianto. C'è stata dunque un'accelerazione dell'ultimo mese, ma non sufficiente. E poi a pagina 2-3 vedete tutti i decreti, il Salva Italia, il Cresci Italia, le semplificazioni fiscali, il lavoro, spending review, sviluppo. Quante sono le norme attuate, quelle che mancano da attuare, punto per punto, insomma, il tagliando alle riforme del governo lo trovate sul Sole 24 Ore in prima pagina. Ora, intanto la politica si interroga ancora sul tema delle province, che sono state, si vuole riordinare da parte del governo. Oggi vi segnalo un'intervista al ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, intervistata da Mario Aiello sul Messaggero, l'intervista la trovate a pagina 9. Dice, al di là delle specificità locali, credo che in generale fosse venuto il momento per un grande cambiamento dettato proprio dalla storia. Quando vennero istituite le province, erano state disegnate sulla base del tempo di percorrenza a cavallo tra una città e l'altra. I tempi sono cambiati, prima c'erano le carrozze, adesso c'è il web. E alla domanda ci saranno licenziamenti risponde Cancellieri, ci saranno risparmi, non licenziamenti. Il personale verrà assorbito, ridistribuito nelle nuove entità territoriali accorpate. Resteranno come commissari delle province i vecchi presidenti. Però remeranno ovviamente contro. Non potranno farlo, risponde il ministro dell'Interno. Avranno un cronoprogramma da seguire rigorosamente. Stabiliamo date entro le quali dovranno avviare la riforma. Se non lo faranno, manderemo al posto di chi non ne sia tenuto ai tempi i commissari designati dal governo. A quanto ammonta il risparmio? Qui non risponde il ministro. Le cifre esatte le sapremo in corso d'opera. Comunque nessun licenziamento, cambiamo gli assetti, siamo pronti al dialogo, ma basta campanilismi. Tra l'altro parla anche nell'intervista dell'incandidabilità dei condannati, dicendo è allo studio e sarà a questione di giorni la proposta che sta per essere affinata dal ministro Severino e il ministro Patroni Griffi e il ministro Paola Severino, intervistato dal Corriere della Sera, da Dino Martirano, parla proprio di questo. Ora tocca all'incandidabilità. Severino, l'intervista la trovate a pagina 14, presto verrà fatto il testo. Parla in questa intervista molto dell'anticorruzione, parla anche della tenuta del governo. Alla domanda della minaccia di Berlusconi dice: siamo rimasti molto sereni col presidente Monti, ci siamo ripetuti più di una volta, staremo bene lo stesso se dovessimo tornare subito alle nostre occupazioni. E sul tema dell'incandidabilità dei condannati dice Paola Severino: il ministro dell'Interno continuerà a lavorarci per tutto il fine settimana e si prevede che per inizio della prossima vi sarà un testo da confrontare con gli altri ministri interessati. Tocca l'incandidabilità, però per il momento bocche cucite sul provvedimento. Cosa prevede questo provvedimento sull'incandidabilità dei condannati? Per il momento non si sa. Sembra che si studi un'ipotesi di rendere incandidabili coloro che sono stati condannati in via definitiva ad almeno 2 anni di carcere, dai 2 anni in su. Di Pietro e Grillo è certamente il matrimonio più strano e che sta terremotando una parte del mondo politico. Molti giornali aprono su questo. Di Pietro, dopo l'intervista ieri al Fatto Quotidiano, nel quale ha detto l'Italia dei Valori è morta con l'inchiesta di Report, siamo mediaticamente finiti. Ieri c'è stato questo endorsement per molti seguaci del Movimento 5 Stelle, davvero poco chiaro, e cioè di Beppe Grillo, che ha detto Di Pietro andrebbe bene per il Quirinale, è l'unico con la schiena dritta. Di Pietro, noi finiti tiferemo Grillo, così a pagina 15 del Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano apre su questo anche in prima pagina: Di Pietro, Grillo è un terremoto, io e Beppe facciamo paura. Ma c'è anche chi però è molto arrabbiato, come Massimo Donadi, il capogruppo dell'Italia dei Valori, intervistato da Andrea Carugati sull'Unità. Siamo stati 2 giorni a discutere sul futuro dell'Italia dei Valori e intanto Di Pietro si muoveva in direzione contraria. Che succede, Donadi? Succede che invece di ragionare con noi, Di Pietro lavorava da tempo a un percorso di avvicinamento con Grillo, che oggi si è perfezionato. La sua uscita sul Fatto, in cui dichiara morta l'Italia dei valori, e la pronta risposta di Grillo, che lo lancia addirittura al Quirinale, non sono il frutto del caso. E chi sarebbero i mediatori di tutto questo? Casaleggio? Certamente lui è uno di questi, risponde Donadi, che poi dice parole molto dure nei confronti dello stesso Di Pietro. Non so cosa hanno in mente, non me ne frega nulla. Siamo davanti a Mr. Hyde che ha ucciso Dr. Jekyll. Il Di Pietro di oggi è una persona che non riconosco più, a cui nulla più mi lega. Uno che arriva a indicare nell'inchiesta di Report un killeraggio politico contro l'Italia dei valori, come se Monti e Napolitano potessero avere ordinato un complotto. Rasentiamo il delirio. Su tutto prevale una desolante tristezza e un tragico parallelo con Berlusconi. Due leader che cambiano idea in poche ore senza rendere conto a nessuno, che pensano di sciogliere i partiti con un'intervista. La verità è che il tempo dei partiti personali sta finendo e loro, cioè Di Pietro e Berlusconi, sembrano due Dorian Gray che pensano di poter scaricare quasi 20 anni sullo specchio che è il partito, illudendosi di ritrovare una giovinezza perduta. La verità è che entrambi quello che avevano da dare l'hanno già dato. Insomma, Massimo Donadi, che usa parole durissime, tra l'altro con questo accostamento tra Di Pietro e Berlusconi, che penso sia la cosa che faccia più male personalmente allo stesso Di Pietro. Il giornale attacca, ora merita il Quirinale, Grillo soccorre Tonino per mangiargli il partito. Dall'altra parte invece Berlusconi in Kenya è andato, è partito, ha detto prima di partire niente campagna anti-Monti, quindi ha cambiato in qualche modo ancora idea, tanto che Iena sulla Stampa è molto molto graffiante come al solito. A pagina 3, l'ultima smentita di Berlusconi: non ho mai detto di essere Berlusconi. Questo Iena sulla Stampa. Vabbè, rischiamo di fare la fine dell'Italia, ha detto Romney, l'avete sentito? Tra l'altro settimana prossima, se votate Obama, ovviamente si rivolgeva agli americani, ha detto se votate Obama rischiamo di fare la fine come l'Italia. Settimana prossima, ovviamente mercoledì, ci sarà un grande speciale, tutta la radio mobilitata per le elezioni presidenziali, anche 24 mattino, dalle 6 alle 9 ci occuperemo di questo. Ma oggi vi segnalo per chiudere anche un articolo, quando devo chiudere Peter? Tra un minuto, benissimo. Un articolo sul Corriere della Sera che riguarda la Cina, un altro paese pronto a una svolta, i 1000 divieti del congresso, la scala che scende al nightclub dell'hotel John King è già chiusa, un foglio avverte che è chiusa in occasione del 18° congresso. Eccolo qui, l'8 novembre, il 18° congresso del partito inizierà tra meno di una settimana e allora la Cina si prepara con una serie di divieti anche un po' che a noi possono sembrare un po' ridicoli. Niente musica al nightclub, neppure le peccaminose lusinghe della penombra, ma poi vietato aprire i finestrini dei taxi, sarà vietato durante il congresso, mobilitata la polizia, 400.000 volontari, vietata la vendita di coltelli, ai tassisti è chiesto di vigilare su eventuali comportamenti, bloccare appunto i finestrini posteriori prima che uno lanci dei volantini contro il partito, insomma vietati gli aeromodellini per il rischio di attentati con le piccole bombe, insomma tutto vietato perché, racconta il Corriere a pagina 19, c'è il congresso imminente in Cina.